la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori, in questo martedì 1 luglio alle 16.34 e 56 secondi che siamo in diretta qui dagli studi Radio 24 di Milano. Grazie per chi è in ascolto, per chi volesse telefonare oggi all'800240024. Il tema è il POS che entra in vigore per artigiani, commercianti, professionisti sopra i 30 euro, entra in vigore. Però è un obbligo non sanzionato e quindi è un obbligo, per così dire, non coattivo per la parte delle sanzioni. Sui giornali avete letto in questi giorni le opinioni che oggi riascolteremo di chi sostiene che è un aggravio, sono oneri sia per comprare l'apparecchio che per le commissioni in banca. Rispetto al fatto che il controllo fiscale si potrebbe fare per esempio con la trasmissione telematica degli incassi in qualunque forma avvenuti, mi interessa però sapere anche la vostra opinione come consumatori da questo punto di vista, poiché do per scontato che molti di voi siano per abbassare ulteriormente la soglia di tracciabilità che oggi è di 1.000 euro, e quindi immagino che molti di voi siano in realtà a favore. Allora, è difficile immaginare che cosa avverrà, che tipo di contenzioso potrà avvenire tra chi chiede di pagare con il POS e il professionista, artigiano, commerciante che in realtà non è munito perché non rischia la sanzione. Ma io, prima di presentarvi il primo dei due ospiti che abbiamo oggi, vi voglio leggere una lettera che ci è arrivata ieri quando avevo accennato che ci saremmo oggi occupati di questo. Un nostro ascoltatore ci manda una lettera e dice: mia figlia ha un'agenzia di servizi pratiche, noi sin dal primo giorno di apertura abbiamo il POS a disposizione per i nostri clienti, tuttavia vi invio la fattura relativa ai costi che la banca ci impone e volevo evidenziarle un ulteriore problema di cui nessuno ha finora parlato: le commissioni sulle tasse, le marche, in genere tutte quelle spese che alcuni operatori sono costretti ad addebitare al cliente e sul quale noi dovremmo pagare le commissioni bancarie. Insomma, noi incassiamo per conto dello Stato, ma siamo poi noi a pagare le commissioni di incasso. E fa un esempio, ecco l'esempio concreto: commissione di registrazione dell'affitto per l'apparato 40,98 euro, IVA 9,02, imposta di registro 250 euro, marche da bollo 48 euro, totale 348 euro. Allora, a questo poi vanno aggiunte nelle spese fisse le spese di commissioni. Il totale fa, sommando quindi il POS, le commissioni, la registrazione d'affitto dell'apparato, l'imposta di registro, le marche da bollo, per colui che ci ha scritto questa lettera, il totale arriva all'8% dei nostri ricavi, una spesa insopportabile se il numero di operazioni dovesse raggiungere quote importanti del fatturato. Ecco, ci tenevo a dirle questo: noi siamo adempienti all'obbligo, però il conto finale noi non possiamo che tentare di recuperarlo sul cliente. Ecco, un numero concreto, ci ha mandato poi anche le fatture bancarie, i conti tornano e sono come quelli che vi ho detto. Allora, primo ospite per capire le opinioni delle categorie interessate a questo singolare obbligo senza sanzioni, ed è quindi con noi in questa prima parte della trasmissione Mario Pagani. Mario Pagani, che è il responsabile del Dipartimento delle Politiche Industriali della CNA, quindi stiamo parlando degli artigiani. Buon pomeriggio Pagani. Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori. Che pensa di questo obbligo senza sanzioni? Che penso? Penso sono abbastanza in linea con la lettera che ha ricevuto, nel senso che qui siamo di fronte ad un obbligo di fatto mascherato, perché è vero che non ci sono sanzioni, di fatto però si scarica una tensione, una possibile tensione nel rapporto tra operatore economico e cliente di non facile soluzione. E di fronte a un interesse generale che noi condividiamo, quindi quello di utilizzare di più strumenti di moneta elettronica, perché sono un elemento che consente da un lato abbattimento di costi. Banca d'Italia ha fatto uno studio rispetto al costo del contante in Italia, garantisce sicurezza, garantisce trasparenza, tutti d'accordo, poi ci chiediamo però perché a pagare sostanzialmente il prezzo di una scelta legata all'interesse collettivo debbano essere solo ed unicamente gli operatori economici, con un rischio che è quello rivelato dalla persona che le ha scritto, che è quello che sostanzialmente il tentativo di scaricare quel costo sul consumatore finale oggettivamente c'è, peraltro non sarebbe consentito dal legislatore, però la possibilità che questo succeda oggettivamente c'è. Poi nel caso di specie c'è un aggravante che è relativa al fatto che lì si incassano anche in nome per conto dello Stato alcune somme, quindi rischia di essersi doppia fregatura. Però come dire, l'impatto in particolare su piccole operazioni di transazione rischia di essere pesante. Poi le ripeto, la questione è l'interesse di tutti, perché debbo essere solo io a pagare l'onere di questo interesse collettivo? Allora, intanto la prima raffica di messaggi dei nostri ascoltatori al 238-6666, parecchi dicono, voi giornalisti non dite che è una tangente alle banche, io leggo i messaggi, figuriamoci se non lo dico, altri dicono non bastano tutte le tasse che paghiamo, e figuratevi se ve lo dovete dire a me, che ieri mi sono beccato un bel po' di insulti da ascoltatori che dicono che esagero perché continuo a dire che ne paghiamo troppe. Altri invece, un altro versante, la vedono diversamente, cioè dicono che la colpa è un po' però di tutti, sia dei compratori che non hanno l'abitudine di chiedere lo scontrino, e il commerciante o l'artigiano che fa capire che insomma c'è un prezzo di favore se non richiesto, quindi ecco, parecchi sono ispirati alla diffidenza. Tra l'altro la misura così com'è, secondo me, accrescerà la divisione tra i contribuenti che diffidano di chi non ce l'avrà, perché non penseranno che sia uno che sta risparmiando sui costi, penseranno che è un evasore conclamato, e per questo a me non piace molto. Però Pagani, la risposta ai tanti lavoratori dipendenti e pensionati che dicono gli artigiani, i commercianti non sono nient'altro che liberi di fare quello che noi non siamo liberi col prelievo alla fonte, come si dà la risposta a questi milioni di italiani? Alcune modalità per tracciare le operazioni le ha già citate lei prima, come dire, se pensiamo possa essere questo l'elemento attraverso il quale riusciamo ad avere elementi di trasparenza rispetto alla fiscalità delle imprese, forse abbiamo sbagliato strumento, come dire, sono altre le strade, ci sono, ci possono utilizzare. È vero quello che diceva lei prima, però il rischio è quello che tutta questa tensione si scarichi sul rapporto tra operatore economico e consumatore. Va detto peraltro che molto spesso il consumatore non sa quali siano i costi che ricadono sull'impresa, e questo è un primo problema. Quindi occorrerebbe anche lavorare, trovare una strada che ponga in modo assolutamente trasparente alcuni elementi di questo di questa tematica, perché noi non siamo portati a dire ci guadagnano solo le banche. È vero però che se questa operazione porterà ad un aumento considerevole dei volumi transati attraverso strumenti di moneta elettronica, qualcuno ci guadagna, e ai noi sono le banche e i circuiti, e qualcuno invece paga, e in questo caso sono le imprese, e forse in via indiretta i consumatori. Tra l'altro faccio notare ai signori consumatori che ovviamente, siccome c'è lo spesometro e il redditometro, c'è anche un problema. So che alla maggior parte di voi interessa poco, perché tutti sono convinti che se non hai niente da nascondere non hai niente da temere. Io sono un liberale che invece ci tengo alla privacy, quindi voi volete vivere in un mondo in cui anche per 30 euro lo Stato ha diritto di sapere tutto? Benissimo, io ritengo che, avendo visto come funziona lo spesometro e l'erditometro, lo Stato non è solo interessato ad artigiani, commercianti e professionisti, è interessato innanzitutto a ciascuno di voi, e non mi raccontate che ciascuno di voi è davvero tutto convinto che poi lo Stato gli chiederà il giusto, perché non facciamo altro che dettagliarvi ogni giorno. Ieri avete sentito, no, quant'è la richiesta rispetto all'incassato, perché viene molto gonfiata negli accertamenti, visti gli incentivi ai funzionari per il contenzioso compreso e non per ciò che si incassa. Quindi io ci rifletterei su una cosa come questa. Sentiamo Gianluigi da Milano cosa ci dice, così poi facciamo commentare a Mario Pagani della CNA. Gianluigi, prego, che pensi? Io trovo che è una cosa assurda, perché prima di tutto bisognerebbe dotare tutte le persone di carta di credito o comunque di banca. Io ho una moglie che fa la parrucchiera, ha tante clienti che sono delle pensionate che non hanno forse neanche il conto corrente. Come fai a fargli il POS? Io mi domando e dico. Poi qua si vuole mandare quel messaggio subliminale in cui artigiani, commercianti eccetera eccetera sono sempre i soliti evasori. Adesso lo Stato dovrebbe ringraziarci se riusciamo a tenere aperta la saracinesca e versargli quel poco che riusciamo a versargli nelle loro tasche, perché ormai con questo, in questo periodo di crisi abbiamo visto i fatturati, gli incassi dimezzati. È questo, 30-40%. Gianluigi, lo racconta, guardi, io tento di raccontarlo ogni giorno, mi dicono che sono fin troppo, però aspetti un secondo, sentiamo da Pagani una cosa, l'impressione, mi corregga se è sbagliata però, spieghiamo ai nostri ascoltatori, l'impressione è stata che questo governo si è trovato a ereditare una norma rispetto alla quale era quasi, non voglio dire non convinto, però non se l'è sentita di farla decadere per evitare le accuse, siete con gli evasori e contemporaneamente non l'ha sposata, e così voi avete avuto segnali di questo? Sì, è un po' così, è un po' come le ha detto, d'altronde la norma è figlia del governo Monti, quindi non è di questo governo, non solo, va detto che la norma recava insieme due elementi che avevamo chiesto fin dall'inizio. Uno, l'attivazione di un tavolo presso il Ministero dell'Economia tra associazioni di rappresentanza delle imprese coinvolte, banche e circuiti per trovare soluzioni che portassero ad un abbattimento dei costi. L'altra iniziativa era quella di decreti attuativi che individuassero alcuni livelli di esenzione. E il tavolo c'è stato? Il tavolo si è riunito due volte nel pressoché disinteresse di colui il quale doveva guidare il tavolo, senza arrivare a trovare una soluzione, perché dall'altra parte sono arrivati a dirci: ma guardate, i costi medi della moneta elettronica in Italia sono uguali a quelli degli altri paesi europei, portandoci la media del pollo. Sì, sì, lo so. Questo perché, è un classico argomento del sistema bancario. Esatto, lei sa bene che lì, come dire, gran parte dei volumi vengono dalle operazioni del mondo della grande distribuzione organizzata, che non ha le condizioni che ha il parrucchiere che abbassano il costo medio. Troppo, troppo facile. E del resto è lo stesso metodologia con la quale hanno sempre negato i costi elevati di commissione al piccolo risparmiatore, la stessa cosa. Posso dirle una cosa, sì, dottor Giannino? No, Giannino, e basta, prego. No, mi veniva in mente, lei ha citato alcuni strumenti, spesometro, redditometro, ce n'è un altro del quale i consumatori non sono a conoscenza, che sono gli studi di settore. I miei ascoltatori sì, bene però. In presenza, le sono grato, perché i consumatori spesso non sanno che al di là dell'emissione o meno di scontrini, fatture, tutti i piccoli operatori, commercianti, artigiani che siano, hanno di fronte, nel momento in cui fanno la cosiddetta dichiarazione dei redditi, debbono rispettare gli studi di settore che, a fronte di consumi e di altri parametri sempre più precisi, determinano che se non voglio essere controllato io debba dichiarare almeno X. Guardi, abbiamo spiegato molto bene che cosa vuol dire essere normali, congrui, eccetera eccetera, e come spesso il commercialista dica all'assistito: guarda, anche se la tua cifra d'affari è l'imponibile, l'imposta è inferiore, meglio stare lì, perché altrimenti poi è peggio. La versione di Oscar. Eccoci qui, torniamo in diretta, 16:48, 40 secondi sul POS, obbligo ma senza sanzione. Abbiamo sentito la CNA, quindi gli artigiani, continuano ad arrivare molti messaggi. Per esempio, alcuni dicono: perché non obbligare allora, se questa è l'obiezione, cioè i costi, le banche a app gratuite e commissioni regolate? Una bella osservazione, perché le banche sostengono che per loro è un costo e quindi naturalmente va remunerato, e quindi questo non si aggira con questa facile soluzione. Monica da Modena, falegname. Sono falegname e vendo il 99% con fatture pagate con bonifico o qualche assegno. Per le 10 media, non più, ricevute fiscali all'anno che faccio, dovrei sostenere anche la spesa del POS? Anche perché non è che è un costo che poi mi incrementa le vendite, sono un ulteriore taglio ai miei ricavi. Monica da Modena, grazie di averselo scritto e spiegato. Allora, in questa seconda parte della trasmissione abbiamo con noi il presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, gli esperti contabili di Napoli, Vincenzo Moretta. Allora, per i commercialisti da una parte c'è l'obbligo perché sono appunto professionisti, dall'altra poi i commercialisti in realtà lavorano per lo Stato, come abbiamo più volte spiegato, cioè sono il pilastro senza di cui lo Stato non incassa, e quindi lo Stato tende anche poi ogni tanto a dargli qualche schiaffettino, come abbiamo visto quasi un anno e mezzo fa nelle loro vicende congressuali. Moretta, lei che dice di questo obbligo non sanzionato? Buonasera Giannino, un saluto a tutti i radioascoltatori. Beh, certamente io mi associo a quanto già detto in precedenza in questa trasmissione, perché è un po' un caos, si è cercato di mutuare un'esperienza americana, ma senza avere le strutture e l'abitudine e soprattutto la cultura che hanno gli americani verso questo nuovo strumento. Quindi sicuramente non siamo favorevoli, perché già tanti oneri che la nostra professione deve soccombere, purtroppo c'è anche questo. Dobbiamo, ma che succederà? Dobbiamo seguire. Secondo voi, Presidente, che succederà in concreto di fronte a un cliente che dice no, c'è l'obbligo e io voglio pagare col POS e lei non mi può dire che non ce l'ha? In realtà, quali strade si aprono in concreto nel nostro ordinamento? Beh, innanzitutto io credo che a un certo punto ci dovrà essere una sanzione, perché così com'è oggi è inutile, perché tutti, non essendoci la sanzione, dicono vabbè, tanto non c'è un obbligo ma non è sanzionato, per cui possiamo anche tranquillamente tralasciare questo obbligo per il momento. Molti si stanno atteggiando in questo modo e certamente non è una bella cosa, perché se è uno strumento che viene inserito, un nuovo istituto che viene istituzionalizzato, certamente non è bello sentire tanti commercianti, tanti professionisti che in questo momento non vedono di questo strumento. Ci stiamo adeguando, stiamo cercando di dare informazioni, stiamo cercando di spingere a che si regolarizzi la posizione dei singoli professionisti, commercianti, artigiani, però certamente è stato un altro contraccolpo questo, un altro contraccolpo ad un sistema che ancora una volta vede delle riforme emergenziali ma non strutturali. Noi abbiamo bisogno di una riforma strutturata, di una semplificazione fiscale, ma certamente l'obiettivo è sempre quello che lei ha citato prima, una pressione fiscale enorme, e quindi questo lo vediamo ancora come un ulteriore aggravio. Io ricordo a tutti che naturalmente oggi entra in vigore l'aliquota 26%, quella io chiamo ammazza risparmio, che è regressiva. Tenete conto che se qualcuno di voi è un vecchio cassettista, che ne so, c'è un titolo generale, non è certo né un intermediario finanziario né una banca, perché quelli se lo portano alla dichiarazione dei redditi progressiva, ma e quindi si becca il 26%, voi dovete sommare a quel 26% sull'ipotetica cedola, che ne so, su 500 euro di dividendi che incassate su quanto avete di azioni parcheggiate lì da anni, una piccola parte dei vostri risparmi. Tenete conto che dovete sommare al 26%, dovete sommare poi la Tobin Tax, dovete sommare poi l'imposta di bollo e pagate il 32%, cioè ecco, questo è quello che succede da oggi. Altro esempio, guardate che continuiamo a ricevere segnalazioni dei nostri ascoltatori della RAI, che malgrado le precisazioni e chiarimenti continua a chiedere il canone speciale, quello di impresa, anche per esempio per le televisioni nelle sale d'attesa dei professionisti, dicendo che sono a scopo di lucro. Allora, se un professionista nella sala d'attesa del suo studio c'ha un televisore acceso, qual è lo scopo di lucro? Non c'è lo scopo di lucro, eppure la RAI chiede il canone per le imprese. Vi ricordo che la tariffa del canone per le imprese vale da un minimo di 203,7 euro fino a 7.000 euro. Ecco, potrei continuare a lungo ma mi fermo qua, perché prima di tornare al nostro ospite sentiamo rapidamente ancora qualche ascoltatore. Ernesta da Vicenza, prego Ernesta, come la pensi? Salve Giannino, allora io ho una impresa per la manutenzione di Ernesto, mi pare di capire, mi hanno tirato una trappola, Ernesta, mi scusi. Praticamente ho questa impresa dove ho 5 dipendenti, questi 5 dipendenti li faccio uscire dalla mia azienda per in siti diversi per andare a riparare lavatrici, lavastoviglie, cosa devo avere? 5 POS? Punto di domanda. Buona domanda, adesso lo chiediamo al presidente dei dottori commercialisti di Napoli. Sentiamo Antonio da Torino, prego Antonio da Torino, come la pensa? Buonasera Giannino, io sono un povero ambulante che dalla crisi ne siamo usciti oltre che con le ossa rotte, anche di più. Io diciamo che io tratto extraalimentare, da noi abbiamo degli articoli che partono da un minimo di un euro ma al massimo 10 euro, sì. Perciò i nostri clienti spendono 3 euro, 4 euro, 5 euro e vi chiedono di pagare con la carta? Ieri una cliente mi ha detto appunto, lo sa che oggi c'è l'obbligo del POS, cioè, ma io non vedo se è normale dover pagare 5 euro o 3 euro con la carta di credito o con il banco. Allora, per chi è in ascolto, guardate che il problema degli ambulanti, del commercio di prossimità, è un problema serissimo nel nostro paese, quindi io non vi inviterei a non sorridere su queste cose, perché è la struttura dei consumi, quella di prossimità, che ha preso le peggiori botte e sulle quali io non direi che è il momento di fare aggravi. Però io non voglio sembrare quello che difende gli evasori. Che dice il presidente dei dottori commercialisti di Napoli? Nel caso di Ernesto bisogna fare 5 POS, sì. Sì, bisogna fare i 5 post senza dubbio, però per quanto riguarda gli ambulanti, purtroppo anche dalla loro parte c'è stato un po' un abuso. Noi per anni abbiamo assistito a tanti ambulanti che non avevano neanche idea di cosa potesse essere un registratore di cassa, però certamente le esasperazioni non vanno bene, quindi anche questa è un'esagerazione per loro. Diciamo che il giusto sta nel mezzo, ma va ancora ristrutturato e rimodulato. Questa è sicuramente la mia opinione, ma che ho già suggerito al governo, perché ritengo che questa norma debba essere almeno modificata. Mi riferisco anche ad una cosa che è stata detta prima. Io credo che inevitabilmente il governo debba assolutamente dare anche un credito d'imposta per chi si attrezza con questo strumento, perché certamente non può pesare ancora di più sulle casse delle disagiate, malmenate aziende italiane, piccole, medie, grandi che si siano. Grazie Presidente, io sono per la somma di queste due cose, la segnalazione telematica, che basta un software su un computer per fare degli incassi, e i crediti d'imposta per le spese e gli aggravi, così noi trasliamo al cliente. E questo mi sembra sarebbe molto più utile e meno divisivo. Basta dividerci con lo Stato che ci dice tu sei un evasore, tu le paghi. Continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani.